gufi, state a casa. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. I terzini di quella nazionale olandese 10 anni dopo giocavano mezziali in Europa in altre squadre, quindi è il calcio olandese che ha rivoluzionato il calcio, e Cruyff era l'emblema di quel calcio, però il suo ruolo era un ruolo ben definito, cioè di seconda punta, di centrocampista offensivo, che poteva giocare anche a prima punta perché aveva grandissime qualità di rapidità, di salto di testa, di tecnica. Era quello che faceva scoccare la scintilla, perché il loro calcio era bello, era da vedere, era produttivo, facevano risultati, però quando arrivava la palla a Cruyff vedevi che c'era un qualcosa di diverso. A parte che sentire Facchetti parlare di Johan Cruyff fa venire i brividi. 800240024, oggi non è morto soltanto un grande ex giocatore, un grande allenatore, 68 anni, vinto dal tumore ai polmoni. Qualche settimana fa aveva detto di sentirsi meglio, ma queste sono cose insidiose. C'è un suo tweet del 13 febbraio in cui c'era ottimismo, diciamo. Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao Giovanni, ciao Piero. Ciao, Oggi non è morto soltanto Johan Cruyff, ma è morto un simbolo. Un ispiratore. Un fuoriclasse assoluto. Io ho scritto il più grande uomo di calcio di sempre, perché ci sono stati un paio di giocatori più grandi. Ovviamente penso a Maradona e Pelé, però da allenatori uno non ci ha nemmeno provato e l'altro ha fallito. Invece Cruyff è stato fenomenale anche da allenatore, quindi io credo che non ci siano dubbi sul fatto che sia stato il più grande uomo di calcio di sempre, ma soprattutto è stato uno straordinario ispiratore, da Sacchi a Guardiola, per citare due dei tecnici che in tempi diversi ma comunque moderni hanno esaltato il gioco del calcio. Ecco, sono stati tutti prosecutori. Dice Guardiola, che penso possa essere l'epitaffio più bello, dice Guardiola: Cruyff ha dipinto la Cappella Sistina, e poi noi, dicendo da Van Gaal a Rijkaard, da lui, quelli che sono venuti dopo a Barcellona, abbiamo fatto alcuni ritocchi, ma la Cappella Sistina l'ha dipinta Cruyff. Sì, Cruyff che ha avuto forse ha avuto una carriera talmente grande da giocatore da non poter dire che da allenatore ha avuto le stesse fortune. Pur avendo vinto tantissimo, pur avendo innovato. Il primo Dream Team del Barcellona lo ha costruito lui, che era quella squadra fantastica della quale Guardiola era il regista e l'ispiratore. Poi è chiaro, ci furono anche degli episodi come il famoso 4-0 del Milan ad Atene, nel quale la sicurezza di Cruyff andava al di là e diventava presunzione, e quindi Capello quella volta, applicando in maniera molto intelligente il vecchio calcio all'italiana, seppe batterlo e proprio sculacciarlo con quel 4-0. Però voglio dire, al di là di alcuni episodi, non c'è dubbio che Guardiola abbia proseguito, insomma, la lezione di Rinus Michels, che era quella della grande Olanda, dell'arancia meccanica, prima dell'Ajax e poi della grande Olanda, lui l'ha portata e l'ha evoluta a Barcellona a livelli siderali. Io penso, chiaramente, insomma, io sono nato nel 74, quindi il Cruyff calciatore me lo ricordo poco. Diciamo, abbiamo studiato, no? Sui libri sacri, sui libri di scuola. Io penso che banalmente, insomma, se il calcio è qualcosa di diverso, non è soltanto un gioco, non è soltanto uno sport, non è soltanto un meccanismo, ma è anche metafora della vita politica, etica, estetica e tante altre cose insieme, lo si deve anche moltissimo a Cruyff e alla sua filosofia di gioco, che poi chiaramente rappresenta quell'Olanda lì, quel Barcellona lì, un certo modo collettivista di pensare a questo gioco, ovviamente con delle grandi qualità. Fra questi giocatori di grandi qualità lui era il più grande di tutti, ma insomma è un'idea. La bellezza del calcio sta nel fatto che veramente mescola tutto, che non è soltanto un bellissimo gioco, a volte non è neanche un bellissimo gioco, ci sono pure partite noiose, ma è una cosa diversa che confina con il campanile, con la politica, con, con la filosofia, ecco, Cruyff è stato questo, secondo me, è un'ispirazione enorme da questo punto di vista. Guarda, vi leggo un messaggio che ci hanno scritto, 349-238-6666, Franco da Mantova, ho 55 anni e per noi bambini di allora Cruyff era il calcio, il numero 14 che portava rendeva lieve anche andare in panchina. Perché poi è legato a questo numero 14 in un'epoca in cui il calcio era da 1 a 11, neanche questo, esatto, in questo è precursore. È vero, è vero. Numero 14 resterà per sempre il suo. Io me lo ricordo in una competizione che non vinse, il Mondiale del 74, nel quale l'Olanda arrivò in finale, venne battuta dalla Germania, padrona di casa. Ma forse quelle partite, ricordo una partita contro il Brasile che vinsero 2-0. Quello fu il calcio olandese, ma direi insomma il calcio offensivo in generale allo stato puro, fu una manifestazione di calcio eccezionale, veramente come dire, poi le partite le vince chi segna più gol e giustamente la vinse la Germania, però devo dire che quel mondiale del 74 portò un falso storico come risultato, perché chiaro l'Olanda, ma forse un falso storico anche che Cruyff non l'abbia mai vinto il mondiale. Magari capiterà anche a Messi. È un ulteriore elemento di ideologia, di filosofia, cioè il fatto che questo calcio qui sia stato bellissimo, sia stato rivoluzionario e abbia vinto molto meno di quello che avrebbe potuto vincere, insomma, è una sorta di manifesto quasi estetico di questa idea di calcio. Poi è ovvio che l'Olanda avrebbe preferito vincere nel 74 e nel 78 anche, però insomma è chiaro che va ricordato che l'Olanda è l'unica che ha avuto la sfiga di giocare due finali sempre in casa dei padroni di casa, e una insomma, anche in condizioni particolari, diciamo, sì, quella in Argentina, 1978, certo. Con un arbitraggio lì ricordiamoci che Cruyff già non c'era, no, certo. Cruyff gioca soltanto nel 74, direi che ha vinto abbastanza Coppe dei Campioni Cruyff per sentirsi quasi a posto a posto con la sua, con la coscienza del suo palmarè. Ecco, tre Coppe dei Campioni, tre volte il pallone d'oro. Non c'è dubbio che come Messi, magari Messi però avrà ancora almeno un'altra chance, ecco, il fatto che gli manchi un mondiale o anche soltanto un europeo, perché l'europeo che vince l'Olanda di Gullit e Van Basten ovviamente è molto dopo il ritiro di Cruyff. Ecco, lui, ma io direi che soprattutto se è vero che quello che la vera grandezza di un personaggio viene testimoniata dall'ascito di ispirazione, dal suo ascito di ispirazione, ciò che ha ispirato Cruyff, la grandezza degli allenatori, dei giocatori, degli allenatori ispirati dalla lezione di Cruyff, credo non abbia paragoni. Grazie Paolo, ti lascio con un compito perché ce l'ha scritto un amico. Wembley, Inghilterra, Olanda 0-2, voto della Gazzetta dello Sport, non c'è scritto in che anno, Cruyff 10, visto che ogni tanto frequenti ancora, vai a cercare. Ciao Paolo. Ciao. Grazie Paolo Condò. 800 24 00 24, se volete parlarci di Cruyff oppure anche di Italia-Spagna questa sera ore 20:45, o di Antonio Conte, perché poi il tema di giornata è quello, Antonio Conte e il tiro a Conte al CT che è iniziato ufficialmente a 81 giorni dal nostro debutto nell'Europeo. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, ne stanno arrivando diluvio di messaggi su Cruyff, che è stato campione d'infanzia per tanti. Questa sera ore 20:45 Italia-Spagna, Udine, proviamo a mettere da parte per un po' tutte le questioni legate ai timori, alla sicurezza, a pensare che cosa accadrà anche in Francia tra giugno e luglio. Io penso che al di là della partita, poi però ne parliamo, da due giorni si è aperto il tiro ad Antonio Conte, specialità tutta italiana, il tiro al CT. Prima si chiede al CT di fare chiarezza sul futuro e poi si sta a fare la discussione sulla virgola. Aspetta che intanto saluto Maurizio Crosetti, ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a voi, ciao. Allora, ciao. La pietra dello scandalo è quella famoso paragone, quella della nazionale come un garage, me lo fate risentire? Stare 4 mesi senza fare niente, pensare che ce ne siano altri 2 anni così, sinceramente ho avvertito una difficoltà, ecco, da questo punto di vista. Farei molta fatica, ecco, a stare in garage, ecco. Quando una macchina è in garage è lontana dal prato, no? Quindi tu entri nel garage, senti il profumo delle gomme, senti il profumo dell'olio della macchina, senti il profumo della macchina, ma non senti il profumo dell'erba, questo è fuori dubbio. No, a parte che non capisco cosa ci sia da scandalizzarsi, perché Conte è fatto così, però critiche, c'è chi lo ha accusato di aver infangato un simbolo, quello della nazionale. Allora, ieri Conte si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Mi fate sentire il pezzo, quello dove dice si fa di tutto per screditarmi. Vedi che comunque a prescindere si cerchi un qualcosa per creare del disordine, no? Per creare comunque una polemica, per creare comunque un titolo ad effetto, per comunque cercare di discreditare, no? Questo dispiace, perché ripeto, per me questa è un'esperienza fantastica, lo dico col cuore aperto, e penso che non c'è stato mai un giorno in cui mi sono pentito della scelta che ho fatto, anzi. Ha ragione Conte o no? Non so come la pensate. Cross, puoi partire tu, poi andiamo anche su Cruyff, perché sì, francamente... Ma intanto sì, è difficile, però . È talmente enorme quello che è successo qualche ora fa. Enorme, no? Non solo nel senso della rievocazione, ovviamente, della storia che si incrocia con la perdita di Johan Cruyff, ma... anzi all'olandese Cruyff, Johan Cruyff, ma è davvero imprescindibile, tra l'altro anche nella sera di Italia-Spagna, non pensare a quanto Cruyff ci sia direttamente nella Spagna per filiazione, per eredità diretta. Cruyff è l'uomo che ha creato il sistema delle giovanili del Barcellona, omologato, e lo dico in senso buono, in senso positivo, all'idea che tutte le squadre, tutte le formazioni, dai bambini più piccoli a Messi, dovessero giocare allo stesso modo a livello proprio di interpretazione del calcio e quindi di visione nel futuro. Cioè, quanto è diverso il nostro garage, ma altro che garage, il nostro ripostiglio degli attrezzi, il nostro recinto di galline, senza capacità di vedere mai oltre il futuro. Non stanno venendo a portarmi via, No, okay, no, però siamo tranquilli. Tra poco mi portano via. Quanto è piccolo rispetto all'idea invece che guardava non avanti, ma di più, e che aveva Cruyff. Noi non riusciamo mai a impostare qualcosa che possa durare, qualcosa che vada oltre le promesse, tutte le chiacchiere che fecero Conte, Tavecchio, su come sarebbe cambiato il modo di interpretare il ruolo di CT, come lui sarebbe riuscito a essere non solo il martello sull'incudine quotidiana, ma l'uomo della vera rivoluzione. Quante parole vane, quante promesse a vuoto. Però in questo ha creduto, no? Ha accettato da Tavecchi. Quindi devo dire che nelle ore di Cruyff il nostro nanismo mi sembra ancora più clamoroso, non solo perché lui era un gigante, ma perché noi siamo proprio dei nani assoluti, scusate. Leggiamo un po' di messaggi, continuate a mandare messaggi al 349-238-6666, ovviamente intervenire. Noi degli anni 70 cresciuti a pane Cruyff, ci scrive Torino, non dimentichiamo che ha voluto la famosa cantera, come disse grande Sandro Ciotti facendo nel titolo di un film Il profeta del gol. Cinquantenne da bambino, mio padre allenatore di provincia, studiava i libri tattico olandese nel 74, giocano le giovanissimi a zona, la perdita di Cruyff è la perdita di una persona di famiglia. I due minuti che vengono rievocati in cui la Germania non toccò mai il pallone, ci fu il calcio di rigore nella finale del 1974. Sì, c'è anche chi scrive, inizia la partita, lui parte in dribbling, va dritto in area dove lo stendono, mai vista una cosa simile in una finale mondiale. Cruyff, la mia giovinezza, l'Olanda, le mie partite ha subito infinito campione, un campione assoluto 30 anni avanti rispetto ai suoi tempi, avrebbe potuto giocare oggi senza pagare dazio, anche grazie alla sua clamorosa intelligenza. Insomma, ho 55 anni, per noi bambini di allora Cruyff era il calcio, il numero 14 rendeva lieve andare in panchina, questo l'abbiamo detto prima. Insomma, mi sembra veramente che soprattutto da parte di chi ha qualche anno in più, di chi se lo ricorda e non l'ha soltanto visto e studiato dopo, insomma, siamo di fronte a una figura leggendaria. Francamente, parlare di Conte in questo momento è abbastanza complicato, anche se poi il paragone ci sta. Per tornare al discorso che faceva Maurizio, sicuramente questa cosa non è successa, cioè Antonio Conte non è diventato, diciamo, il manager della nazionale capace di progettare il futuro, non l'ha neanche voluto fare. Non ha cambiato la nostra storia. Non l'ha neanche ha voluto fare, su questo non ci sono dubbi, al di là del fatto che io mi sento garantito dal punto di vista tecnico, perché abbiamo un ottimo allenatore per andare all'europeo. È anche vero, secondo me, che non è facile, cioè io sono abbastanza convinto che lui, forse diciamo sopravvalutando la sua capacità di fare la rivoluzione, si aspettasse qualcosa di diverso, cioè pensasse poi in questi due anni di riuscire col suo carisma e con il suo essere martello a ottenere di più nei rapporti con le società, nei rapporti con la federazione, con la Lega, e non è stato del tutto possibile. Sì, non è che dice una bugia quando dice che gli erano state fatte delle promesse, che c'era un'idea forse diversa da quello che poi è successo. Per questo io dico, perché ci si stupisce oggi se lui, andando via, in fondo racconta questa verità, almeno questa sua verità, questa parte sua di verità, Maurizio? Sì, è così, è che qualche volta si dimentica che ci sono martelli che sottovalutano le incudini, scusate la metafora che ha cominciato Conte, perché l'incudine è qualcosa che condiziona, sta lì, ferma, tu picchi sull'incudine ma l'incudine è ingombrante, non si sposta, non si sgretola, e per quanto tu possa essere martello, fino in fondo non sei un martello pneumatico, non la fori, è l'incudine che obbliga a essere i martelli a vuoto, è quella che secondo me condiziona anche l'idea che un CT possa essere intercambiabile e possa passare dal ruolo di uomo di campo e quindi martello nella quotidianità a selezionatore. Conte non era evidente per chiunque lo conoscesse, lo scrivemmo il primo giorno, ma era facile come previsione. Ma lo diceva anche lui, però ha avuto coraggio, ha ragione Pierluigi, ha avuto il coraggio di provarci, ha creduto che l'incudine gli potesse raccontare delle verità e non delle favole. Forse anche l'incudine oggettivamente presa della morsa, siamo in officina oggi, in fabbro, presa della morsa dei club, dagli egoismi, dai particolarismi e anche dagli interessi legittimi, va detto, delle società, poi ha prodotto questo stallo dal quale non si esce se non con uno di quei colpi d'ala che alle volte nella storia del nostro calcio arrivano dove non te l'aspetti, quando non te l'aspetti, nei momenti peggiori, lo sappiamo, l'abbiamo già detto, sembra che tutto sia perduto e poi magari vinciamo i mondiali, sembra che tutto sia perduto e poi magari andiamo avanti agli europei, chi lo sa. Di sicuro il momento è difficile, e di sicuro Conte però giocherà un europeo al massimo della sua intensità. Ecco, come conoscevamo Conte e sapevamo che non sarebbe stato un selezionatore, ma sarebbe rimasto quello che era, così sono certo che fino all'ultimo istante dell'avventura italiana in Francia lui spremerà il sangue da una squadra che chissà se è una rapa o se ha del sangue vero. Altro, certo. Qualche volta sembra un po' una rapa, qualche altra volta probabilmente la sottovalutiamo un po'. Staremo a vedere. Questa sera cominciamo ad avere anche qualche risposta, perché a tre mesi dall'inizio di una grande manifestazione bisogna cominciare a dare anche grandi risposte contro grandi squadre, altrimenti significa che i limiti sono evidenti. Grazie Maurizio. Salutaci il Grazie carrozziere. A voi, ciao a tutti. Ciao. Grazie ciao. Maurizio Crosetti, 800 24 00 24. A proposito, oggi è l'ultimo giorno in cui regaliamo 4 copie di biglietti per Barça Dreams, il film sul Barcellona, dove ovviamente c'è molto Cruyff, e allora scrivete i vostri sms 349 238 6666, e insomma la redazione di Tutti Convocati sceglierà i 4 più belli, 4 più significativi. Il tema è questo, il vostro ricordo di Johan Cruyff, che cosa ha rappresentato per voi, soprattutto per quelli, e ci sono, perché lo stanno scrivendo, che l'hanno visto giocare dal vivo. Adesso ci fermiamo, c'è la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta... Convocati. Guarda qui, c'è chi scrive: George Best contro Cruyff è stato uno dei più belli, dei più bei duelli della storia. Chiedono a dove nasca la loro rivalità. Poi c'è chi ricorda che la prima maglietta della squadra negli anni 70 da bambini comprata era quella dell'Olanda, perché quell'Olanda aveva anche un colore particolare, maglia, era già originale di suo. Fra poco avremo Fabio Capello, poi avremo Albertini, avremo tanti ricordi. No, aspetta, c'è già Capello. Mister, buon pomeriggio. Come va, mister? Ciao. Ciao, bene. Sono in macchina che sto guidando. Siete stati rivali, siete stati anche molto amici, credo. Sì, aveva avuto un buonissimo rapporto post carriera calcistica e allenatore. L'ho incontrato tante volte in Spagna e in altri eventi in giro per l'Europa. È stato sempre un piacere parlare con lui di calcio e di altre cose. Tra l'altro, come sapete, lui aveva avuto qualche problema al cuore prima, poi aveva dovuto smettere di allenare. E si sperava, avevo letto che anche questa volta stava vincendo 2-0 sì, contro il cancro, purtroppo però evidentemente c'è stato un arbitro che non ha voluto farlo vincere. Che ispirazione è stata per il calcio, per il gioco, anche per te personalmente? Insomma, parliamo di un rivoluzionario, perché parliamo di... spieghiamolo a chi ha 20 anni oggi. Ma io ho avuto la fortuna di giocarci contro e purtroppo abbiamo perso nella finale contro l'Ajax a Belgrado. Un giocatore fantastico per la tecnica e la velocità con cui giocava e soprattutto era un vero leader in campo. Era lui che guidava la squadra, era lui che tentava i tempi di tutti i movimenti. E questo poi è riuscito anche a trasmetterlo quando è diventato allenatore del Barcellona. Questo modo di possesso palla, questo che adesso porta avanti Guardiola, Luis Enrique e anche tutto il calcio spagnolo, è un po' un suo insegnamento. E tutti quanti gli dedicano proprio questa scuola, questo modo di pensare calcio, perché sanno che è stato lui a portarlo in Spagna. Ma a te piace, da appassionato di calcio, al di là delle squadre che hai allenato, che chiaramente si sono anche adattate ai giocatori, ce ne sono state alcune molto spettacolari, altre più pragmatiche, da appassionato di calcio, il barcellonismo, il calcio olandese, ti piace? A me piace la via di mezzo. Cioè, il capire quando devi tenere palla, quando devi fare il possesso palla e quando devi andare in verticale. Questo è il calcio che io desidero dalle squadre con cui lavoro. Però, sai, questi sono insegnamenti che cerchi di dare, però ci vogliono anche gli attori. Se gli attori non sono attenti, qualche volta si va in difficoltà. Gli attori, il Barcellona li ha avuti per fare prima il calcio che voleva Guardiola e poi il calcio che adesso fa Luis Enrique con degli attori in attacco formidabili. Tu puoi anche fare il possesso palla e poi se hai Messi, Neymar e Suarez e magari qualche centrocampista che arriva da dietro che inventa anche lui, puoi aspettare e fare il possesso palla. Guardiola al Bayern si è trovato davanti due giocatori formidabili in attacco, quindi due goleador che concretizzano tutto il lavoro della squadra, come Lewandowski e Müller, e quindi anche quel gioco è un gioco che diventa redditizio. Posso bello o non bello. Qualche volta è noioso. È noioso perché questo possesso palla non ti fa vedere niente. Poi, quando la palla arriva in area di rigore e ti trovi un'invenzione di Lewandowski o Müller o dall'altra parte il trio fantastico del Barcellona, vale la pena vedere la partita. Ma difatti i tedeschi l'hanno anche un po' criticato, il tiki-taka di Guardiola. Io approfitto perché intanto... perché tanti ce lo stanno scrivendo, parlando di Cruyff invece allenatore, e ricordano quella finale ad Atene, il 4-0, e lo definiscono arrogante. Fabio Capello era sull'altra panchina, per questo ne approfitto. Sì, no, loro sono arrivati convinto, avevano appena vinto il campionato ed erano convinti di fare un boccone unico di quel Milan, perché oltretutto ci mancavano i due difensori centrali, Costa Curta e Varesi. E invece sono stati un po' arroganti, però noi avevamo l'umiltà dalla nostra parte. Ciao mister, buona Pasqua. Ciao. Ti abbraccio. Altrettanto a voi tutti. Grazie. Grazie a Fabio Capello. Grazie a Fabio Capello. Salve, dopo Messico 70 con la leggendaria Italia-Germania, Cruyff ha rappresentato un calcio di rottura e di svolta. La confesso, per me è un calcio spiazzante, ci scrive Andrea da Bologna. Ho servito lavorando come cameriere negli anni 94-95 a Barcellona il grande Cruyff e dovevo cambiargli più volte il posacenere ad acqua perché fumava molto, è morto un grande. E poi non simulava mai un fallo, anzi spesso si ritrovava miracolosamente l'equilibrio, quasi fosse di gomma. Cry for Cruyff, l'essenza del calcio. C'è chi ricorda Daniele. La sua foto al matrimonio, sembrava seduto in panchina. Adesso io non ho presente la foto, non so se tu l'hai mai, magari la cerchiamo anche. La PlayStation 30 anni prima, ci scrive Bruno da Verona. Insomma, continuate a mandarci i vostri ricordi, continuate a chiamare 800 24 00 24. Abbiamo già Demetrio. Abbiamo Demetrio Albertini. Eccolo. Ci sono anche Luca da Torino e Bruno da Milano, che poi coinvolgiamo sicuramente. Demetrio, ciao. Ciao, ciao a tutti. Che hai conosciuto Cruyff, hai vissuto l'ambiente Barcellona, il barcellonismo, tutto quello di cui stiamo parlando, che aveva in Cruyff il padre putativo. Assolutamente sì, io poi siamo visti parecchio il mese di giugno, perché siamo stati insieme quando c'erano le elezioni e abbiamo vissuto parecchio tempo insieme, facendo anche una partitella, mangiando, stando insieme, quindi l'hai conosciuto un po' come persona. Lo conoscevo già per le volte che sono andato, quando ho giocato in quella squadra, però questo mese, l'ultimo mese a giugno, ho consolidato un po' quell'amicizia. Cruyff ha una particolarità, cioè lui è una leggenda in Olanda, all'Ajax, è una leggenda al Barcellona. Non è semplice trovare giocatori capaci di mettere insieme due anime, forse è capitato a Di Stefano, però non sono tanti. No, non sono tanti, lui è una leggenda, è una filosofia, il Barcellona attuale arriva dalla costruzione della filosofia, dal proseguimento della filosofia che c'era Cruyff nel 94, era considerato il Dream Team, quella squadra che affrontammo perché avevamo vinto la Champions League, perché in 100 anni di storia il Barcellona aveva vinto solo con Cruyff, no? Certo. E quindi devo dire che lì è considerato un po' un'icona calcistica, come credo. Sì, anche ruvido, perché poi spesso è stato un personaggio scomodo. Assolutamente. Ma infatti l'aspetto politico, a Demetrio lo posso chiedere, anche perché insomma ha giocato in quella squadra lì. E quanto la contaminazione fra la politica, la voglia di indipendenza, il MESC è un club, cioè quanto c'entra tutto questo? È unita assolutamente. Il MESC è un club, non è una polisportiva, perché hai più sport, più discipline, più sport, ma perché è la nazionale della Catalunya. Fino all'avvento della, quando si è stato messo sulla maglia per la prima volta UNICEF, prima la maglia del Barcellona non aveva sponsor. E quindi perché? Perché come le maglie della nazionale non c'era. Io mi ricordo una volta che sono andato a parlare a università dove c'era l'Erasmus, in questo momento abbiamo visto anche il tragico, certo, evento che è successo proprio lì, parlando in un'università a Barcellona, la prima domanda che i giornalisti mi hanno fatto è: quando farai un'intervista in catalano? Lì è proprio... È un tema molto caldo. Hanno cercato l'indipendenza quest'anno, sappiamo, ho vissuto questo, e il Barcellona, anche se ne rimane fuori o cerca di rimanerne fuori, è all'interno di una comunità di questo tipo. Sì, ed è impossibile. Grazie Demetrio. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Demetrio, auguri. Grazie Demetrio Albertini. C'è traffico. Poi Luca, Bruno, 800 24 00 24, e tante altre sorprese, tanti cerchiamo amici. Cerchiamo anche qualche altro ospite. Sì. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Stiamo facendo anche il conto delle finali di Coppa dei Campioni, 800 24 00 24. Luca da Torino, Luca. Sì, buonasera, grazie per l'opportunità, carissimi e giustissimi. Dici. Forse il primo, l'unico che mi fece piangere in quella famosa finale con l'Inter, però l'ho amato subito, tant'è vero che poi calcio era molto scarso e giocavo a basket e usavo il 14, perché lui era, per me lui è il calcio, perché poi ricordo il gol che fece con Barcellona, quella mezza carpiata vicino al palo, non si sa ancora come riuscì a colpirla, era un filosofo, atleta, non lo so, mi spinge il cuore a strapparlo, però Johan Cruyff per me è così, è un dio, è un dio del calcio, un dio dello sport. Guarda che bello questo messaggio, grazie, che ci è arrivato su WhatsApp. Caravaggio e Giotto nella pittura, Beatles e Battisti nella musica e Cruyff nel calcio. Prima e dopo di loro non è più la stessa cosa. C'è sempre molto subuteo nei ricordi, oltre che sul campo. Ma perché è la nostra generazione. La nostra generazione. Tu un po' meno, esatto. Insomma. Beh, insomma, giochiamo. Guarda, mi ha mandato Demetrio Albertini via WhatsApp le 14 regole del calcio di Johan Cruyff. Spirito di squadra, iniziativa, tecnica, giocare tutti insieme, responsabilità. Tattica, creatività, rispetto, personalità, ce ne sono le sue 14 regole. Marito no? di Amsterdam mi ha telefonato in lacrime per dirmi del lutto, ci scrive Marta da Treviso. Essendo più o meno coetaneo, ho avuto la fortuna di vedere tutta la carriera alla fine dal vivo quando fece qualche apparizione al Milan, perché ci fu quella famosa suggestione di vederlo. Fu il sogno, l'ha scritto nero. Qualcun sì, altro, sì, durato sì. troppo poco. Bruno da Milano, Bruno. Grazie alla convocazione, beh. Eccoci. Dopo Albertini e Capello è dura dire questa cosa. Una cosa si può dire, tranquillo. Però, che forse è l'unico fuori classe che è riuscito in qualche modo a duplicare se stesso trasferendo al Barcellona gran parte della sua qualità. Perché se Barcellona è cresciuto e diventato quello che è oggi, è per gli standard che Cruyff è riuscito a togliersi da se stesso e a dare alla comunità. Nessun altro, né Maradona, né Pelé, nessuno è riuscito a duplicarsi in questo senso. No, assolutamente, ma infatti è quello che diceva Condò all'inizio della puntata, cioè la forza di Cruyff è veramente una forza da filosofo del calcio, perché lui ha rappresentato la congiunzione fra l'essere un campione pazzesco, quindi ha unito la teoria alla pratica, diciamo, è stato in campo un campione pazzesco, forse inferiore soltanto, ma sono, poi questi sono paragoni sempre molto difficili, a quei due almeno Pelé e Maradona, poi adesso su Messi il dibattito può essere aperto, ma insomma siamo in quella categoria lì, dei primi 5, dei primi 10 nella storia del calcio mondiale di sempre, di tutti i tempi, ha unito a tutto questo poi una capacità di visione sul gioco da allenatore impressionante. Sono pochi quelli che, anzi non mi vengono in mente onestamente, perché poi la forza, quello che è il Barcellona oggi lo è anche per quell'Ajax lì e per il fatto che lui è andato nel Barcellona e ha costruito quella mentalità, e ci sono i ragazzi della cantera che giocano 4-3-3, che giocano con la stessa filosofia e con lo stesso modulo da quando hanno 12 anni, e quindi questa è una forza incredibile. Poi è ovvio che il Barcellona è anche molto altro, è anche un grande impero economico, non è soltanto, diciamo, filosofia e volemose bene, è anche un grandissimo club dal punto di vista del suo benedetto fatturato, ma lo è però con una identità e una fedeltà a se stesso e a quel modello che Cruyff ha inventato, davvero incredibile. C'è un amico che ricorda un gol in volo di esterno destro come un angelo, c'è il pallonetto dal limite dell'area di rigore che poi rifece quasi identico Van Basten, sempre con la maglia dell'Ajax. Ha giocato calcio moderno con 40 anni d'anticipo. Claudio da Bergamo, no, chi è? Claudio da Bergamo, sì, Claudio. Sì, buongiorno, grazie per voi. Eccoci. Io volevo, ho 60 anni, perciò io ho visto giocare Cruyff, vi assicuro una cosa. Adesso giustamente si dice Messi, Maradona, per carità, ma Cruyff, vi assicuro, avevano meno. Un gioco di grande, da Roland Gini, grande scuro, però. Un tiro dominante, visione di gioco estremamente. Correva di 100 metri in 10 secondi. Sì, era anche un atleta, su questo si vede anche guardando le immagini, quelle che passano, che vengono passate anche adesso. Non era soltanto un giocatore con una straordinaria visione tattica di gioco, era anche un grande atleta, perché già in quel calcio quell'Olanda cominciò a correre tantissimo, più di tante altre squadre, e anche questo era innovativo, mettere insieme quella corsa e la qualità straordinaria delle giocate. Davide da Vicenza, Davide. Buongiorno ragazzi. Vi dico solo che sono su un furgone in giro per l'Italia con la targa 1414. Ho quasi 50 anni, quindi chiaramente sono cresciuto con Cruyff e la grande Olanda di Neskens, Rosenbrink e via discorrendo. Vorrei ricordarlo consigliando a tutti voi, ma probabilmente l'avete già fatto, di andare a vedere il profilo che ha disegnato Federico Buffa in uno dei suoi diciamo documentari sui grandi calciatori del passato, fra i quali Best, Di Stefano, eccetera, eccetera. Per me è stato un idolo, è stato il mio primo idolo, e poi sono venuti gli altri, da Paolo Rossi a Roberto Baggio, fino a Battistuta, Maradona, però lui è stato il primo e sarà sempre il primo, il più grande per me di tutti i tempi. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie, fra l'altro l'elemento iconico di quel numero è impressionante, perché a parte che è anche il mio numero preferito, ma Cruyff c'entra poco, mi piace e basta, ma in generale quello è stato un numero che raccontava un'originalità, un'anomalia. Insomma, l'Olanda nel calcio, quell'Olanda lì ha fatto veramente completamente scuola, cultura, trasgressione. Adesso stiamo parlando di calcio, di moduli, ma c'è anche tutta la famosa questione legata all'interpretazione dei ritiri, alle donne che potevano partecipare ai ritiri, alla libertà sessuale, che insomma era un tema in altre parti del mondo in quel momento molto diverso. Quindi è veramente una cultura. Torniamo al discorso di partenza, poi il calcio non lo puoi soltanto rinchiudere nel rettangolo dei 90 minuti dell'11 contro 11, finisce per abbracciare mille altri aspetti della società, quindi anche da questo punto di vista, insomma, quella squadra lì è una squadra che deve essere studiata e celebrata. Guarda, Totò da Como ha scritto: sinceramente preferisco Van Basten a Cruyff. Però Van Basten c'è stato un momento in cui in tanti hanno pensato, creduto che potesse essere il nuovo Cruyff. Ci proviamo. Allora sì, per dopo, dopo fra l'altro parleremo anche di qualcosa che in qualche modo si intreccia all'aspetto della comunicazione, perché insomma oggi celebreremo con qualche giorno di ritardo, perché c'è stato i tragici fatti di Bruxelles, i 10 anni di Twitter, e insomma oggi inevitabilmente, quando è arrivata la notizia, io sono andato a cercare sul profilo ufficiale di Cruyff e c'era purtroppo la foto con l'annuncio della morte. Parleremo di come il calcio e lo sport sono cambiati in questi anni grazie al ruolo della comunicazione dei diretti protagonisti con i social network. Sai quanti retweet ha fatto l'annuncio sul profilo, sull'account ufficiale Twitter di Cruyff? Siamo a 45.000. Torniamo subito dopo il GR. Tutti convocati. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Dal 31 marzo Renzo Martinelli è al cinema con il suo nuovo film Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, buonasera. Per più di 30 anni ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24 il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Lunedì 28 marzo alle 15 e alle 21.30 su Radio 24. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. Convocati 800 24 00 24. Ci ha raggiunto. Anche che andavamo piano, quindi sì. Salvatore Ippolito, che il grande pubblico non conosce, però dovrebbe conoscerlo, perché è il country manager Italia di Twitter. Sì, lo usa tutti i giorni, ma lui personalmente non lo conosce. Quanto il country manager di Twitter, quanti tweet al giorno fa? Beh, non c'è un numero specifico, però di media. Twittiamo. La prima cosa che faccio la mattina, l'ultima che faccio prima di andare a nanna. Allora, oggi, vedi, è uno di quei, è una di quelle situazioni, manca a farla apposta, l'altra drammaticamente sarà quella di martedì per i fatti di Bruxelles, in cui veramente, insomma, questo strumento diventa incredibile. L'abbiamo detto prima, il numero l'abbiamo dato. Nel senso che se sei chiaramente un giornalista, oggi non ne puoi più fare. Io mi ricordo qualche anno fa c'erano dei giornalisti che erano un po' snob, un po' all'antica e che avevano paura di questo strumento. Ne parliamo fra un attimo, ovviamente. Sì, c'è Franco Caugio, c'è Franco Caugio. Franco. Ciao Barone, fra l'altro oggi è una giornata speciale per Udine, ti ho visto in un po' di foto, anche quelle twittate, perché stasera è una bella serata e te lo chiedo subito, che cosa rappresenta questa Italia-Spagna per Udine? Poi parliamo ovviamente di Cruyff. Ma guarda, io parlo con un salentino, come direi, da Udine, quindi sicuramente rappresenta molto, quindi è un omaggio all'Udinese Calcio e alla famiglia Pozzo, che sicuramente ha fatto tanto per questa società, per questa città e poi per tutti i friulani, quindi sicuramente dopo l'inaugurazione dello stadio nuovo credo che questa sia veramente dovuto alla società udinese questa partita della nazionale con la Spagna. Di Cruyff invece, che ricordo hai, stavano ricostruendo un po', lui ha vinto 3 coppe dei campioni e ce l'aveva toccando, con le italiane. Mi stai toccando uno dei più grandi che io abbia giocato contro, quindi purtroppo quando via delle persone fa sempre male, quindi direi che veramente io ho giocato con tanti, con Maradona, Platini, Zico e compagnia bella. Lui è stato uno in quel periodo lì il migliore al mondo, sicuramente. Poi Maradona, sono arrivati Messi, sono arrivati tutti gli altri, quindi ma lui come giocatore ma tu sul podio, totale, a che posto lo metti? Totale, bene, i primi sicuramente, sì. Quindi no, Diego, ma più o meno Messi, di Pelé o Maradona, perché poi in tanti ci dicono lui dopo Maradona, ma guarda, lui meglio di Maradona. Fare dei paragoni è brutto, perché Pelé ha giocato solamente in Sud America, non si è mai scontrato con campionati europei. Maradona ha giocato sia in Italia che in Spagna e ha giocato lì, quindi Maradona per me, Diego, è il numero uno. Poi c'è Messi, poi Cruyff lo metto in questi grandissimi, quindi nei primi 5 sicuramente, perché il calcio totale l'hanno inventato loro, gli olandesi. All'inizio io mi ricordo quando ho fatto la finale di Coppa a Belgrado, giocavamo contro la grande Ajax, ragazzi, la palla te la facevano vedere. Non ci avete capito molto, noi eravamo molto giovani, era il primo campionato che si vinceva, quindi avevamo tutti 22 anni, 23 anni, eravamo alle prime armi, sicuramente loro alla testa, quando hanno vinto questa Coppa io ho un ricordo di questo Ulshoff, lui, Subir, Kroll, eravamo sul pullman amareggiati, loro sono usciti fuori come se niente fosse con questa coppa in mano, l'hanno buttata dietro dove c'erano le robe sporche lì, come per dire, sai, per noi non fa niente, no? Sì, sì, la normalità. Noi eravamo incazzatissimi, certo, perché avevamo perso, per loro era veramente come la norma. Erano di una bravura, una formazione eccezionale, e lui praticamente era il numero uno, poi l'abbiamo visto anche noi. Quindi mi dispiace, perché sinceramente è un giocatore che è uno dei migliori, direi, che oggi quella scena lì della Coppa buttata con le cose a lavare credo sia impossibile. Grazie Franco, grazie. Tutti quanti noi veramente eravamo lì, siamo rimasti un po', porca mia, l'avessimo avuta noi in mano eravamo ancora lì a girare il campo di Belgrado, no? Quindi invece loro come se niente fosse. Grazie Franco, grazie a voi, grazie, ciao, grazie Barone. Franco Causa, ma mi fai chiedere oggi cosa sarebbe, ad esempio dal punto di vista social, Cruyff, ma non Cruyff allenatore, opinionista, quello che è stato dopo, ma Cruyff giocatore, cioè cosa peserebbe, cosa quanto varrebbe, perché a me alle volte viene in mente, insomma, noi viviamo l'era di Twitter, dei milioni di follower, di amici, ci sono grandi campioni che non l'hanno avuta quell'era lì. L'equivalente adesso, il calciatore più seguito su Twitter è Cristiano Ronaldo, con 40 milioni di follower in questo momento, quindi magari potrebbe essere quello un paragone fattibile. C'è un profilo ancora attivo ovviamente di Johan Cruyff, ovviamente gestito dallo staff, che è quello stesso che ha dato la notizia un'ora fa, che ha 447.000 follower, e Cruyff è, vedo, immagino troverai dati ancora più approfonditi, in questo momento chiaramente al numero uno della trending topic, cioè l'argomento del quale si parla di più. Sì, sì, assolutamente. Anche ma questo hashtag, ma chi se l'ha inventato? È un signore che... lo diciamo, è il diciamo quel, quello il schema, il cancelletto, ed è praticamente ormai il come le vecchie virgolette, no? Cioè il modo difficile da definire, no? Sì, in realtà, ecco, se noi andiamo indietro, stiamo festeggiando 10 anni perché Jack Dorsey nel 21 marzo del 2006 ha mandato il suo primo tweet. Appena un anno dopo, in agosto del 2007, un utente di Twitter, che si chiama Chris Messina, ha utilizzato per la prima volta questo segno, che all'epoca era pound, poi da lì in poi è diventato hashtag, che serviva per aggregare gruppi, conversazioni, argomenti. Era un modo per tenere insieme, diciamo, era un modo anche per dare un senso al cancelletto, che per anni non ha avuto, no, anzi, non ha avuto alcun significato. Faceva pensare a quei call center dove chiami e fa prema cancelletto, no, prema asterisco. C'è una carrellata, adesso sto sul sito, lo posso dire, di Repubblica.it, ma ovviamente anche gli altri giornali ne avranno, con tutti i tweet dell'Ajax, del Barcellona, di grandi campioni, del Feyenoord, anche delle squadre rivali. Cioè, questa è una di quelle giornate, come appunto dicevamo l'altro giorno a Bruxelles, o quando per esempio ci sono situazioni anche in tempo reale, penso alla notte del Bataclan, penso ai terremoti, penso durante le partite. Ecco, per esempio, durante le partite che succede? Si twitta molto. Si twitta molto. Tu pensa solo, ecco, il massimo livello di tweet c'è stato ovviamente durante la finale di Coppa del Mondo, durante Germania-Argentina, e ci sono stati in quel preciso istante in cui erano i minuti finali qualcosa come più di 600.000 tweet al minuto. 600.000 al minuto? 600.000 al minuto, che è uno dei dati assolutamente più ragguardevoli. Teniamo presente che la partita, in ogni caso la partita più vista tra virgolette su Twitter, è stata invece la semifinale, che ha avuto 36 milioni di tweet durante l'arco della partita. Ovviamente il fatto che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, la partita fosse già finita dal punto di vista del risultato, sì, stiamo parlando di Brasile-Germania. Esatto. Sì. Ma è uno strumento di accompagnamento in generale della televisione. Penso a Sanremo, io facendo una battuta mi chiedo come abbiano fatto per tanti anni a fare Sanremo senza Twitter, cioè senza la possibilità di poter commentare in tempo reale, nel senso che, con tutto rispetto per Sanremo e credo che parte del successo del Sanremo degli ultimi anni dipenda anche da questo, no? Dal fatto che la gente, io non lo riconosco, insomma, sto lì e mi ingarello, ingarello vuol dire in romano mi diverto molto nel messaggiare, nel ricevere messaggi, cioè si crea una sorta di palestra virtuale, tribuna stampa virtuale. Mi sa che se lo sono chiesto e si sono anche dati una risposta, tant'è che l'ultimo Sanremo è stato visto su Twitter da una audience che normalmente probabilmente sfuggiva a questo, al festival, che era quello sotto i 34 anni. Il 60% delle persone che ha seguito su Twitter il festival di Sanremo era sotto i 34, quindi è stato in grado di aggiungere, diciamo, complementare all'ascolto di tipo tradizionale. Prima o poi verrà anche pubblico misurato, credo, insieme all'audience ufficiale, quello degli ascolti TV. Beh, io c'è già. Posso dirlo con grande tranquillità che, per esempio, insomma, ormai è un dato. Cioè l'altra sera, per esempio, al di là dell'ascolto molto buono della puntata, il fatto che siamo stati il secondo trend topic, parlo di Tiki Taka, è una roba che poi l'ufficio stampa di Mediaset, tra virgolette, mette nel comunicato, perché è un'ulteriore medaglia. Senti... normalmente la sera, quello che succede se uno va sui trending topic, appunto sulle classifiche degli argomenti più conversati su Twitter, soprattutto la sera, è come se avesse davanti una guida televisiva. Esatto, sono i programmi, vede tutti i programmi, le partite, segue. Come siamo messi con le italiane? Cioè abbiamo questo distacco abissale che ci caratterizza un po' ormai ovunque rispetto alle grandi, a Barcellona, Real Madrid, oppure almeno qui ci difendiamo? Ci difendiamo, anche se il distacco rispetto per esempio al Barcellona, l'account internazionale dell'FC Barcellona ha qualcosa come 17 milioni di follower, poi molti di più se consideriamo tutti gli altri account, diciamo, nei singoli paesi. La squadra che ha il maggior numero di follower in Italia è il Milan, poco sopra i 3 milioni. E poi c'è la Juve, che per una volta non è prima, ma è seconda. Ma questo perché? Caso. Vuol dire che si sono mossi prima? Vuol dire che ci hanno investito? Significa che è un brand che tira di più? Un po' tutto, nel senso che sicuramente grande attenzione da parte delle persone che hanno guardato a lungo riguardo all'opportunità anche di investire sul brand Milan su Twitter, cosa che hanno spinto, sostenuto nel corso degli ultimi anni. E devo dire che però la Juventus sta venendo dietro, anche perché poi la Juve ha anche un paio di giocatori come Chiellini e Buffon Scusate, ma adesso mi stavo dimenticando una cosa clamorosa. L'altro giorno Buffon ha fatto un capolavoro, insomma una poesia, qualcuno si è anche detto: ma chi ci sarà dietro? Probabilmente qualcuno gli avrà anche dato una mano, però credo che l'idea anzi sono certo che l'idea sia stata assolutamente sua e anche buona parte della scrittura è stata sua. Insomma, cosa aggiunge? Oggi dietro ai giocatori comincia a esserci l'esigenza di avere una comunicazione di un certo tipo? Sì, assolutamente. Cioè, ci sono grandi staff dietro a tutti i giocatori, c'è grande attenzione da parte di ovviamente del proprio branding personale, quindi c'è attenzione che poi si tramuta in capacità di attrarre utenza da parte di questi signori e di poter interagire con i propri interlocutori. La cosa bella di Twitter è la possibilità di da parte degli utenti di essere direttamente in contatto con i propri campioni, che è una roba che è assolutamente adesso preparati sulle gaffe, perché sì, Twitter è anche il luogo di gaffe storiche, di sportivi, di discussioni, di polemiche. Fabrizio da Torino, poi ci sono Claudio e Paolo. Fabrizio. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Ragazzi, io mi permetto di dire così, vista la mia grande età. Comunque, Cruyff per me ha rappresentato il più grande calciatore europeo di sempre, di tutti i tempi, perché secondo me il suo modo di fare calcio sarebbe attualissimo anche adesso. Quindi lo considero, al di là di tutte quante le classifiche del momento, il più grande numero uno in assoluto. Per me ha un grandissimo torto, però. Lui era leader di una generazione di fenomeni, letteralmente, che ha rovinato il calcio, perché prima c'era un calcio più lento, più tecnico, gli allenatori insegnavano molto di più la tecnica. Arrivato il grande Ajax, è arrivato la grande Olanda, tutti si sono messi a correre come dei pazzi. Sì, ma il problema era degli altri, il problema era degli altri, non di quell'Olanda e non ad esempio di tanti Barcellona che abbiamo visto in questi anni. Cioè, la tecnica lì certo non è stata un problema. Certo. Era questo il mio ricordo mio di Cruyff. Io gli dico, ovviamente è una colpa tra virgolette, è stato ha cambiato il gioco sicuramente. Però mi viene anche da pensare che forse il gioco sarebbe cambiato lo stesso, e che quindi forse l'ha cambiato con un'organizzazione, nel senso che poi l'elemento, per esempio, della esasperazione atletica credo ci sarebbe stato comunque, quindi credo che abbia dato una mano. Pepe, what an idiot, sometimes people wind you up. Wayne Rooney, 18 gennaio 2012, c'era un classico in corso, un classico di Coppa del Re in Spagna, e insomma Pepe ha fatto una delle sue entrate particolarmente violente, e Wayne Rooney gli scrisse: Pepe, che idiota, a volte le persone non ragionano e ti provocano. 64.245 retweet, 11.122 mi piace. Insomma, Twitter cambia tutto, perché Twitter, tu magari sei a cena, stai guardando una partita, sei un calciatore, magari sei fatto anche un bicchiere di vino e quindi sei un pochino più libero mentalmente rispetto a una conferenza stampa. E fai un danno o forse dici anche una cosa alla fine che ti viene dal cuore, no? Cioè, quanto questo può essere in qualche modo utile, e insomma qualche gaffe c'è stata in questi anni. Ma questa, no? È la vera natura di Twitter alla fine, cioè, tirare fuori il lato vero. Esattamente, come accennavo prima, diciamo fuori onda, in realtà quello che succede è che Twitter è in grado di mixare insieme tutte le componenti di una persona, quindi quella personale, quella professionale, tutti gli elementi che in qualche maniera costruiscono una personalità, ed è quello poi quello in grado di attrarre diciamo l'attenzione da parte delle persone che seguono i propri beniamini, perché poi c'è quasi l'attenzione come se si fosse da un buco della serratura e si vuole guardare cosa succede nella stanza segreta, la stanza privata del giocatore, e molto spesso può accadere che da questo buco della serratura si riesca a vedere qualche aspetto forse meno pubblico, sì, meno... che la porta si apre un po' troppo, fa un po' sorridere i club che cercano di mettere le regole, di scriverle a contratto, anche se poi alcuni sono anche ferrei nel farle rispettare le regole, sì, ma perché chissà perché ad esempio la Juventus è raro trovare, credo, una gaffa di un giocatore juventino. Marchisio su Inter Juve, insomma, al di là del rientro del merito, no, sul telecronista cieco, sì. No, ma insomma succede, anche la Pellegrini qualche giorno fa gli è scappata una foto col numero di telefono sopra, sì, piccoli perché sorride il signor Capuano. Sono cose che possono succedere, e davvero ci si rende conto della velocità anche di Twitter, eh? Io ieri ho fatto una foto, mi è arrivata subito una chiamata di un collega, un secondo dopo, cioè c'è questo elemento di istantaneità che è davvero incredibile. Io penso, lo dico sinceramente, che è chiaro che gli addetti stampa tradizionali che devono evitare casini possano aver paura dei social network. Prandelli ne parlò a lungo prima del mondiale brasiliano, però credo anche che insomma questo sia veramente un grande strumento di libertà. di democrazia, perché anche il calciatore deve avere la libertà di poi anche di imparare ad amministrare la sua immagine. È ovvio che se hai 500.000 follower devi avere magari più attenzione che ce ne hai 12. Credo questo sia abbastanza normale, perché qualsiasi cosa che dice è una dichiarazione ufficiale. Facciamo Claudio e Paolo. Claudio da Vicenza. Claudio. Sì, buongiorno. Eccoci. E anche il mio contributo, io penso che John Cruyff sia il numero uno. Lo metto davanti a Maradona e a Pelé, l'ho sempre messo davanti a Maradona e Pelé da un punto di vista per motivi atletici e tecnici. E credo che anche nel calcio moderno, nel calcio di oggi, anche un Cristiano Ronaldo da quei punti di vista farebbe fatica a stargli dietro. C'è chi lo mette sul podio suo personale con Rivera e Zico. Ora qui c'è un amico invece che scrive: se aveste chiesto ieri in che posizione Cruyff nella classifica dei migliori, non sarebbe stato nei primi 5. Oggi sembra il migliore, Luca. Effetto, non lo so. Bah. Però ognuno opinabile. Paolo da Milano. Sì, buongiorno. Io ho un ricordo un po' particolare. Io nel 73 avevo 9 anni, mi ricordo la finale famosa che la Juve persa a Belgrado, ne parlava prima Causio. Mi ricordo, non so se vi ricordate, che l'Ajax si festeggiò con la maglia della Juventus, no? Era un'immagine, c'è anche sui siti, lo fanno vedere. Mi ricordo questa immagine e io a mio padre gli dice: ma ha vinto la Juve? E tu no, ha vinto Cruyff, il più grande di tutti. Io quell'attimo sono stato zitto e dico: papà, c'hai ragione. Mi dispiace tantissimo, per me è stato un mito. Sì, altra scena oggi credo impossibile da vedere, perché se tu vinci, sponsor in vista, altro che sì, maglia dell'avversario. E mi viene anche da pensare a quanto queste telefonate ci raccontino la meravigliosa saldatura che esiste fra generazioni, no? Nel senso che poi adesso ci sono tanti ragazzi che ci ascoltano, magari si staranno interessando, incuriosendo su, no, su questa figura leggendaria che magari hanno soltanto potuto, della quale hanno soltanto sentito parlare o l'hanno vista in qualche intervista prima di qualche finale di Champions. Cioè, che ricorda che oggi sono 25 anni fa dall'ultimo gol e dall'ultima partita di Maradona, immagino in Italia con il Napoli. Sì. E quindi è un giorno triste anche per questo, perché insomma è un giorno di commemorazioni. Peggio i politici o peggio gli sportivi a livello di gaffe? Beh, adesso veniamo dalla vicenda Chiesimo, lo sappiamo, no? Chiesimo, la vicenda Gasparri. Chiesimo di Gasparri con il social media manager che credo si sia autolicenziato, dimesso. Beh, sempre se non l'ha scritto lui, Adesso tu sei malfidato, se c'è una posizione ufficiale. Una delle capacità di stare su Twitter è proprio offerta dalla necessità di avere, come dire, grande controllo di quello che si sta scrivendo e di quello che si sta pensando, prima di tutto. Quindi in qualche maniera non è nient'altro che la proiezione virtuale su Twitter di quello che sono le persone. Ma questi caratteri, si parlava di più caratteri, meno caratteri, rimarranno... Il numero rimane quello. In realtà quello. Le caratteristiche le hai citate benissimo poc'anzi te di Twitter, sono la brevità, l'essere conciso, l'essere sintetico e l'essere live, real time. Tutte queste cose qua sono quelle che rimarranno per sempre su Twitter. Io penso, sai, a prescindere dal numero di caratteri, no? Che esista anche una, non voglio dirla grossa, ma una letteratura, cioè un modo diverso di cambiare. È chiaro che la letteratura è un'altra cosa, no? La scrittura, la bellezza della scrittura è completamente un'altra cosa, però credo che anche Twitter possa essere utile. Tanto abbiamo trovato il responsabile. Nel creare gli aforismi. Ottimo, Giorgio. Giorgio De Luca ci segnala che il responsabile del Twitter di Gasparri, Luca Ferlaino, figlio di Corrado Ferlaino, storico presidente però del il napoletano Napoli. Chiesimo De Luca. Vuol dire qualcosa? Chiesimo, no, non vuol dire. Guarda che secondo me suona meglio. Noi adesso chiamiamo Auriemma, ci facciamo dare una conferma da questo punto di vista. Quali sono gli obiettivi di Twitter? Adesso parliamo da uomo, cioè, che volete fare? Come si fa a crescere? Si fa crescere, educando le persone al migliore utilizzo di Twitter, a capire quali sono le vere potenzialità di questo strumento, appunto quello che dicevamo prima, quindi la possibilità di essere costantemente in contatto con quello che sta succedendo nel mondo. Noi diciamo che Twitter è un microfono come quello che io ho davanti, a disposizione di tutti per poter esprimersi, ma allo stesso tempo anche una finestra per guardare quello che sta succedendo. Poc'anzi appunto mi ero reso conto, perché ero via, ho aperto i trending topic, Cruyff, e mi sono reso conto della notizia. Ed è quello che succede quotidianamente ogni giorno a ciascuno di noi nel momento in cui atterra su Twitter. Ci fermiamo qui? Ci fermiamo e il resto ve lo diciamo su Twitter. Ringraziamo a tutti i convocati, tanto siamo attivi 24 ore su 24. Ringraziamo Salvatore Ippolito. Grazie a voi. Che adesso abbiamo conosciuto, insomma, è il capo di Twitter in Italia, la persona che che ci aiuta con questo mezzo che usiamo molto. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Domani magari parliamo un po' anche di Italia-Spagna, vediamo come sarà andata. Ciao Pier. Ciao ragazzi. A domani. Ciao. Ciao. Saluti.